Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Nell'anniversario di Tangentopoli la Corte dei Conti lancia un allarme corruzione nelle pubbliche amministrazioni, non ci sono anticorpi. Per Termini Imerese 14 manifestazioni di interesse, dice Scajola, scontro e urla in aula durante la relazione del ministro al Senato. Caso Libia, Frattini preme sulla Svizzera perché cancelli la lista nera e su Tripoli perché consenta la partenza di due elvetici trattenuti dal 2008. In aula alla Camera si vota il decreto sulla protezione civile, presente Bertolaso, le nostre interviste ai volontari storici. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. Nuovo allarme corruzione dalla Corte dei Conti. Tutto questo nell'inaugurazione dell'anno giudiziario che cade però nell'anniversario di Tangentopoli, il 18°. Ha seguito la cerimonia per noi Alessandra Schepisi. Alessandra. Sì, buongiorno. Dalla corruzione alla mala sanità, allo spreco delle opere incompiute, la Corte dei Conti non risparmia bacchettata nel suo tradizionale bilancio annuale. Preoccupa soprattutto un dato, l'aumento del 229% delle denunce di corruzione dal 2008 al 2009, cresciute anche le denunce di concussione, più 153%, fenomeni molto diffusi, ha detto il Presidente della Corte dei Conti, Tullio Lazzaro, contro i quali le pubbliche amministrazioni spesso non attivano i necessari anticorpi e contro i quali il codice penale non basta più, di qui la necessità, secondo Lazzaro, di un ritorno all'etica. La Corte dei Conti ha poi messo a tacere le indiscrezioni di stampa che parlavano di un buco di bilancio da 9 miliardi di euro. Non esiste nessun buco, al massimo una scarsa correttezza contabile nello scrivere alcune cifre. Altro tema d'attualità, l'attività della Protezione Civile. Sentiamo Lazzaro in conferenza stampa. La mia idea è che ci dovrebbe essere un controllo reale, un controllo non solo formale. Un controllo su ciò che fa la protezione civile serve a far funzionare meglio la protezione civile e serve a mettere al riparo anche il potere politico da insinuazioni, da un po' di notizie a volte tendenziose, a volte non del tutto benevole. I magistrati contabili infine tornano sul tema della durata dei processi, bocciando l'eventuale inserimento di una norma transitoria che preveda che anche i processi già iniziati si debbano concludere entro tempi certi. Il processo breve, insomma, secondo la Corte dei Conti, vanificherebbe molti procedimenti contabili già in corso. E da Roma è tutto, a voi la linea. Grazie Alessandra Schepisi per questi aggiornamenti. Torneremo a parlare delle vicende che riguardano la protezione civile nella seconda parte del giornale radio con un'ampia pagina. 18 anni fa, si diceva, iniziava Tangentopoli e questo era dedicato al nostro sondaggio di oggi. Mani Pulite compie 18 anni. Il 17 febbraio 92 fu l'arresto di Mario Chiesa, preso mentre riceveva una bustarella, a dare il via alla valanga che travolse la Prima Repubblica e un'intera classe dirigente di politici e imprenditori. Vi chiedevamo oggi se, alla luce delle nuove inchieste, secondo voi c'è la possibilità di una nuova Tangentopoli. Prevalgono i sì. Il 61% di voi dice siamo in presenza di questo rischio. Allora nacque tutto per le denunce dell'imprenditore Luca Magni, che oggi, 18 anni dopo, accusa. Io ho fatto la mia denuncia, pensavo di fare una cosa giusta e penso tuttora di averla fatta, e quando mi sono trovato nella condizione che nel giro di pochissimo tempo perdevo tutti i lavori e mi crollava tutto addosso, nessuna di queste persone, ripeto, a cominciare da Di Pietro, si è mai degnato di capire quello che mi stava succedendo e si è mai degnato di farmi una telefonata di solidarietà. Bianco o Nero torna domattina alle 8:30 per votare. Radio24.it. Alessandro Milan, GR24, il sole 24 ore. Conferma il no a nuovi incentivi per l'auto. Conferma che per Termini Imerese, lo stabilimento siciliano che la Fiat ha deciso di lasciare dall'inizio del 2011, stanno arrivando parecchie manifestazioni di interesse, 14 per la precisione. Così il ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola, intervenuto questa mattina in aula al Senato. Abbiamo tempo per selezionare in modo trasparente proposte serie ed affidabili. Riteniamo imprescindibili il mantenimento dell'occupazione, la salvaguardia della presenza industriale nel territorio. È in quest'ottica che già a gennaio abbiamo istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico una apposita task force con il compito di raccogliere, analizzare, valutare le diverse manifestazioni di interesse per nuove attività produttive. Ma ci sono state anche contestazioni e il presidente di turno, Domenico Nania, è stato costretto ad interrompere la seduta di fronte appunto alla rabbia di un senatore del Partito Democratico. Sentiamo che cosa è successo in aula. Senatore Garraffa, ma lei cosa pretende? Che il ministro dica quello che pensa lei? E allora quando interverrà lei spiegherà le sue ragioni. La deve smettere di fare l'urlatore di professione. Senta. Ma lasci esprimere a ciascuno il suo pensiero, ma basta. Ma basta. Allora, senatore Garraffa, lei ha parlato. Presidente, mi scusi, presidente, signor ministro. Presidente, sì. Lei non può permettere che un senatore dica che dico bugie. Non si può permettere lei. Lei non se lo può permettere. Lei è un maleducato e un bugiardo. Ci sono 100 milioni dello Stato e 350 milioni della Regione Sicilia. E si vergogni. Senatore Garraffa, mi scusi. Guardi, senatore Garraffa, io credo di essere stato abbastanza tollerante nei... Ma la smettete, basta! Vabbè, la seduta è sospesa. E questo dunque quello che è successo in aula al Senato. A proposito di settore auto, Toyota valuta eventuali problemi al servostesso della Corolla, l'auto più venduta al mondo, al punto da prendere anche in considerazione un nuovo maxi richiamo. L'ha detto il vicepresidente del gruppo, Shinichi Sasaki, a capo del controllo di qualità e dei servizi ai consumatori, nel corso di una lunga conferenza stampa a Tokyo, la terza in 12 giorni con il numero 1 a Kyoto Yoda. Nelle nostre verifiche, ha spiegato, si avverte una resistenza nell'assetto delle ruote. Se è un difetto ne terremo conto e ci muoveremo di conseguenza, ma il numero di segnalazioni negli Stati Uniti è al momento sotto le 100 unità. E ora torniamo sul tema dell'immigrazione, dura presa di posizione della diocesi di Milano guidata dal cardinale Tettamanzi sui fatti di Via Padova. Via Padova, la città in cui speriamo. Basterebbe il titolo dell'editoriale apparso ieri sera sul sito della diocesi di Milano per sintetizzare la posizione espressa dalla curia del capoluogo lombardo. Un articolo senza firma, dunque condiviso da tutti, il cardinale Tettamanzi in testa, in cui si richiama al rispetto di diritti e doveri, si condanna fermamente ogni forma di violenza, ma soprattutto si esprime un monito verso l'indifferenza di chi, si legge, avrebbe potuto intervenire e non lo ha fatto, di chi invece di passare all'azione dà vita al consueto e triste gioco politico di parte. Occorre, si legge nel comunicato, lucidità di giudizio dopo quanto accaduto, la morte di un giovane egiziano, il conflitto etnico tra bande rivali, un episodio che peraltro si colloca in uno scenario di disagio sociale che, complice l'indifferenza di chi avrebbe potuto intervenire prima ma non l'ha fatto, perdura da tempo ed è destinato a rimanere tale finché non si deciderà di ristabilire le condizioni per una normale e costruttiva convivenza civile. La situazione di Via Padova era tale, si fa notare, anche 10 anni fa, quando criminali e vittime erano gli italiani. Che cosa fare allora? Le ricette per la diocesi sono semplici: favorire i ricongiungimenti familiari. È partendo dalla famiglia, infatti, che si costruisce il tessuto sociale, e poi investire su scuola, casa e lavoro. Katia Caramelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E il nostro Paolo Piacenza questa mattina è stato proprio in Via Padova ed è qua in studio con noi adesso. Che cosa hai visto, Paolo? Buongiorno Simone, in realtà il quartiere intorno a Via Padova continua la sua vita di tutti i giorni, non diversa nell'apparenza almeno da quella di altri quartieri più o meno belli e vivibili di Milano. Si notano però due cose: nel quartiere è aumentata a vista d'occhio la presenza delle forze dell'ordine, carabinieri, polizia e militari. L'altra cosa importante da registrare è la mobilitazione degli abitanti, che continua. Oggi alle 17 ci sarà una manifestazione promossa dall'associazione Dialogo, che vedrà insieme egiziani e sudamericani contro l'intolleranza. Questa sera alle 21 alla parrocchia di San Giovanni Crisostomo c'è una veglia di preghiera con il vescovo ausiliare Descalzi. Domani invece è il giorno della mobilitazione dei negozianti, 350 esercenti di tutte le nazionalità che spegneranno le insegne per accendere l'attenzione su una via che dicono è stata dimenticata. Tra le iniziative che testimoniano la voglia di reagire c'è anche l'incontro promosso per questo pomeriggio dall'associazione La Città del Sole Amici del Parco Trotter, che raccoglie i genitori dell'istituto comprensivo La Casa del Sole, una storica scuola modello milanese che oggi rappresenta un modello di integrazione riuscita uscita. Sono stato lì, ho parlato con il direttore scolastico, Francesco Cappelli. Quando gli ho chiesto se condivide il richiamo della curia, lui mi ha indicato almeno tre problemi: il mercato selvaggio degli affitti in certe vie dove ci sono affittuari che speculano sugli immigrati, la mancanza di vigili di quartiere che servirebbero forse più di polizia e militari, e poi l'assenza di una politica delle periferie. Infine, per quanto riguarda il fronte delle indagini, oggi i carabinieri hanno fermato tre giovani egiziani, di cui due irregolari, per i disordini di sabato scorso. Si aggiungono ai sei già fermati nei giorni scorsi. La squadra mobile sta intanto proseguendo le indagini sull'omicidio negli ambienti frequentati dai gruppetti di sudamericani. Ed è tutto. Grazie dunque Paolo Piacenza. Ora ci spostiamo a Londra per una storia. Aveva raccontato di aver ucciso il compagno malato e oggi è stato arrestato. La storia appunto arriva da Londra e nella fattispecie dalla BBC. Sentiamo la nostra Giorgia Scaturro in diretta. Giorgia. Sì, buongiorno. È confermato che Ryan Gosling, 70 anni, presentatore della BBC e pioniere dei diritti degli omosessuali in Gran Bretagna, è stato arrestato dalla polizia di Nottingham con l'accusa di omicidio intenzionale. Una volta ho ucciso un uomo, era il mio amante e aveva l'AIDS. Aveva confessato Gosling in uno dei programmi di punta della BBC Inside Out, giusto lunedì. In realtà da quando lo scorso anno ITV ha mandato in onda ogni istante di un suicidio assistito, sui media britannici si stanno moltiplicando i casi di genitori e partner che confessano di aver aiutato i propri cari a mettere fine alle loro sofferenze. Un reato che in Gran Bretagna è punibile con 14 anni di carcere. In questo caso però l'accusa è di assassinio. Gosling, che non ha rivelato il nome della vittima o il luogo dove è avvenuto il fatto, ha raccontato di aver soffocato il suo giovane amante con un cuscino all'ospedale, dopo che i medici avevano pronosticato che per lui non c'era più niente da fare. Non ho rimorsi, lo amavo molto, soffriva e non credo sia stato un crimine, ha detto il presentatore della BBC, mentre sul caso è stata aperta un'inchiesta. E da Londra è tutto, vi restituisco la linea. Grazie dunque a Giorgia Scaturro. Noi passiamo all'Italia. La prima serata del Festival di Sanremo, gli ascolti tengono rispetto al boom della scorsa edizione. La Clary ci dice: sono felice ma siamo solo all'inizio. Quasi 11 milioni di spettatori per la prima serata e la Rai è contenta. Per essere ballo dei debuttanti è andato bene. In genere va bene il ballo dei debuttanti, è una festa in cui tutti si divertono, non soltanto il direttore di Rai 1, come ha scritto un collega autorevole. Beh, io sono molto felice ma siamo solo all'inizio, e quindi anche se chi ben inizia si dice a metà dell'opera, c'è ancora tanto da fare. Ora bisogna tenere, anche perché oggi non ci saranno più Bonolis e Laurenti, che ieri hanno governato il festival per la prima mezz'ora. Ma ai sanremesi è piaciuto? E chi è piaciuto? Quando ha cantato Toto Cutugno mi sembrava che la canzone aveva una storia, aveva un senso. I tre grandi. Possiamo parlare della Clerici? Che a me è piaciuta tantissimo. A me mi sono piaciuti Sonora. Scanu, sempre solo Scanu. Noemi. Mengoni. Mi è piaciuto molto Claudio Baglioni, mi è piaciuto molto Jimmy Fontana, no, a parte gli scherzi, però mi è dispiaciuto molto la canzone di Pupo e del Principe. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore, Sanremo. Sono le 13:17 minuti e 16 secondi. Nella prima parte del giornale radio abbiamo parlato del nuovo allarme corruzione lanciato dalla Corte dei Conti, tra l'altro nel giorno dell'anniversario di quello che viene considerato l'anniversario di Tangentopoli. Poi abbiamo parlato dell'intervento di questa mattina del ministro delle attività produttive Claudio Scajola sulla Fiat di Termini Imerese, ha confermato il no agli incentivi, ha parlato di 14 manifestazioni di interesse, e poi ci sono stati scontri naturalmente verbali in aula tra lui ed un deputato del Partito Democratico. Siamo tornati in via Padova, dove ci sono stati gli scontri tra immigrati nei giorni scorsi a Milano, e poi abbiamo parlato del Festival di Sanremo. Ora ci occupiamo di Libia. Ci occupiamo di Libia perché, come sapete, il paese aveva chiuso le sue frontiere alle persone provenienti da Schengen nei giorni scorsi. Oggi c'è stato un incontro a Roma tra il ministro degli esteri Frattini ed era presente anche il suo omologo libico. Ha seguito questo incontro per noi Maria Chiara Grandis. Maria Chiara, che cosa è emerso? Sì, buongiorno. Un doppio appello è quello del governo italiano. Da una parte chiede alla Libia di ripristinare il flusso ordinario di persone in ingresso nel paese. Alla Svizzera il ministro degli esteri Franco Frattini chiede invece di cancellare dalla lista nera i 186 membri del governo libico, fra cui il leader Gheddafi e lo stesso ministro degli esteri. La disputa riguarda solo i due paesi e non deve penalizzare gli altri, ha ricordato Frattini, che spiega anche come il trattato di Schengen serva a tutelare gli stati dell'Unione Europea da minacce terroristiche e criminalità e non invece per risolvere disputazioni dispute bilaterali. Nelle ultime ore 20 italiani e 8 cittadini maltesi sono atterrati a Tripoli, dice il ministro degli Esteri, che avrà a breve un colloquio con la collega svizzera in attesa del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea di lunedì. In quella sede il caso verrà esaminato anche in vista di un prossimo vertice Europa-Africa che si svolgerà proprio in Libia. Il leader Gheddafi intanto si dice pronto a rilasciare i due imprenditori tenuti in ostaggio se la Svizzera aprirà un'indagine sulle foto scattate al figlio Hannibal mentre era in stato d'arresto a Ginevra nel luglio del 2008, scatti che erano finiti su tutti i giornali. E da Roma è tutto, linea a voi. Grazie Maria Chiara Grandis per questi aggiornamenti. Altri aggiornamenti, quelli che invece arrivano da Firenze, dove prosegue l'inchiesta su alcuni elementi della Protezione Civile e su alcuni imprenditori. Ho mandato via De Santis quando mi ha presentato il preventivo dei lavori alla Maddalena, più che raddoppiato, da 300 milioni era passato a 650. È la difesa di Guido Bertolaso, spiegando che lui con le ipotesi di corruzione non c'entra nulla. Al massimo, ha detto, ha accettato qualche bottiglia di vino in regalo a Natale, non escludo, ha aggiunto, che sia finito in una trappola. Sul fronte dell'indagine, il GIP di Firenze Rosario Lupo ha respinto le richieste di scarcerazione per Angelo Balducci, Diego Anemone e Mauro della Giovan Paola, e i legali hanno già presentato ricorso al Tribunale del Riesame, che dovrà anche valutare la posizione di Fabio De Santis, che si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia e ha presentato analogo ricorso. La Procura di Perugia dovrebbe raccogliere due filoni d'inchiesta, sia quella fiorentina e sia quella romana, per gli appalti sui grandi eventi, poiché nella capitale è indagato anche il procuratore aggiunto Achille Toro. Ubaldo Cianciulli, GR24, Sole 24 Ore, Firenze. E Valentina Furlanetto ha raccolto le voci di due volontari storici della Protezione Civile per capire come stanno vivendo queste ore tra l'inchiesta e i progetti di riforma. Sentiamo. Dispiace perché il dottor Bertolaso, non dimentichiamo che è stato quello che in questi anni ha condotto la Protezione Civile in Italia, no? E l'ha portata ai traguardi che conosciamo tutti. Nel frattempo c'è stata questa discussione sul decreto legge che voleva trasformare la Protezione Civile in società per azioni. È chiaro che per chi fa il volontario mi spiace sentire che la Protezione Civile debba diventare una SPA, in quanto uno dice faccio il volontario per gli interessi di qualcuno, perché un SPA è sempre poi una società che deve trarne degli utili. Come è cambiata, se è cambiata la Protezione Civile negli anni? Guardi, io ho iniziato negli anni 70, diciamo che ho iniziato precisamente come Protezione Civile col terremoto del Friuli. In realtà allora si parlava solo di soccorso, è solo nel 1992 con l'attuale legge che si parla di prevenzione, previsione, soccorso e superamento dell'emergenza. Mi spiace poi vedere che ci sono dei paesi che stanno franando completamente. Ecco, forse l'amarezza è vedere che nella prevenzione forse si sta investendo ancora poco. Jugoslavia, Albania e Romania compresa, quindi diciamo che dal 1972 e sono esattamente più di 35 anni che partecipo attivamente. Noi adesso siamo diventati, tra virgolette, la barzelletta del paese. Per cui chi mi incontra vuole sapere se io conosco Francesca, 50.000 cose fatte bene. Il Molise, l'Umbria, l'Abruzzo, la Sarno, che le dico, tutte fatte bene, eccezionali. Una stupidaggine da accettare, la Protezione Civile italiana è da buttare. La viviamo con un poco di preoccupazione anche per la questione della SPA. La verità è che noi ci siamo meravigliati. Non eravamo d'accordo su questo, non eravamo d'accordo sicuramente. Perché? Era un modo diverso di gestire la straordinarietà, non so se riesco a farmi capire. Pure i grandi eventi, ovviamente i grandi eventi forse probabilmente andavano gestiti diversamente, forse non era il caso delle Olimpiadi, del nuoto, il G8 Alteo. Lei l'ha conosciuto, lo conosce Guido Bertolaso? Dottore Bertolaso, che ho avuto modo di conoscere in tantissime occasioni di intervento, ho di lui un'immagine bellissima. Molise, tutti seduti su marciapiede a mangiare un panino. Ed è in corso alla Camera proprio la discussione sul decreto legge che riguarda la Protezione Civile, dal quale decreto è stata stralciata la norma così contestata. Ci colleghiamo in diretta con Elisabetta Fiorito da Montecitorio, che sta seguendo i lavori. Elisabetta, buongiorno. Sì, al via qui alla Camera la discussione sul decreto legge sulla protezione civile. Il governo minaccia il ricorso alla fiducia qualora non si riesca a chiudere l'esame del decreto entro venerdì per tempi tecnici. Il provvedimento scade infatti il 28 febbraio e il testo deve tornare all'esame del Senato. Peri Franceschini, PD, spiega di essere disposto a ridurre gli emendamenti a quelli centrali, ma l'opposizione chiede l'eliminazione dello scudo penale per i commissari straordinari in Campania e la distinzione tra grandi eventi e disastri naturali. Stralciata poi la norma che prevedeva la trasformazione della protezione civile in società per azioni. In aula questa mattina il sottosegretario Guido Bertolaso ha annunciato l'intenzione di restare e resterà quindi sia come sottosegretario sia come capo del Dipartimento, malgrado lo scandalo che lo ha coinvolto. La seduta è stata poi sospesa per pochi minuti perché è mancata il rappresentante del governo. Bertolaso è infatti partito per la Calabria dopo il consenso dei deputati PDL per l'emergenza frane. Per il momento qui da Montecitorio è tutto, per studio. Grazie Elisabetta Fiorito, e proprio a proposito di frane andiamo sui due fronti più importanti, quello calabrese del quale si accennava e quello siciliano. Maierato è un paese vuoto, per le strade del piccolo centro in provincia di Vibo Valentia girano solo qualche dipendente comunale e l'esercito per evitare episodi di sciacallaggio. I 2300 residenti aspettano di sapere che fare, se rientrare nelle abitazioni o rimanere lontani dalle loro case. Qualche sicurezza in più dovrebbe arrivare dalla riunione prevista nel pomeriggio e dei nuovi sopralluoghi di vigili del fuoco e protezione civile. Guido Bertolaso potrebbe arrivare presto in Calabria. A preoccupare ancora la pioggia che rischia di far avanzare il fronte della frana, come è successo la notte scorsa con un ulteriore scivolamento a Valle del Costone. I disagi continuano anche nel resto della regione. Ieri la giunta regionale ha chiesto lo stato di calamità naturale. Per ricostruire serviranno decine di milioni di euro. Paola Nania, GR24, Sole 24 Ore, Catanzaro. Le previsioni del tempo non favorevoli tornano a preoccupare gli abitanti dei comuni delle Madonie e dei Nebrodi, ed in particolare quelli di San Fratello, dove a causa di una grossa frana 1.461 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case. A Racuglia, sempre nel Messinese, sono state sgomberate 40 persone, mentre a Sant'Angelo di Brolo 1.000 cittadini sono isolati a causa di uno smottamento e un ponte sulla provinciale 140 rischia di crollare. In tutto, nei comuni dei Nebrodi, sono state 1.563 le persone sfollate. A San Fratello l'allerta meteo, che prevede temporali in Sicilia, preoccupa non poco gli abitanti del paese già devastato dalla frana, che temono infiltrazioni d'acqua nella frattura che potrebbe così riprendere a camminare trascinandosi altre case della parte ovest. La regione siciliana ha già dichiarato lo stato di calamità per 92 comuni, molti dei quali anche della provincia di Palermo. È emergenza anche nel Vallone, territorio della provincia di Caltanissetta al confine con quelle di Palermo e Agrigento. Nella zona sono numerose le strade provinciali chiuse per frane che provocano difficoltà nei collegamenti. E intanto a Niscemi, sempre nel Nisseno, finalmente è arrivato l'ok per abbattere le case colpite dalla frana del 1997. Gianpiero Casagni, GR24, Il Sole 24 Ore, Palermo. Siamo in chiusura con il calcio, la Champions League, ieri il Milan, stasera la Fiorentina. Avercene di gente come Wayne Rooney, capace di far girare da solo, come ieri sera a San Siro, un ottavo di finale di Champions League. La sua doppietta, che spiana la strada al Manchester United, non chiude però definitivamente i giochi. Tra due settimane all'Old Trafford, il Milan sarà chiamato a fare l'impresa del secolo. Seppato, a differenza di ieri sera, ricorderà di avere classe e talento non inferiori al suo collega inglese. I rossoneri potranno sperare in una notte da ricordare, altrimenti addio Europa. Avercene di campioni come Rooney, lo starà pensando anche Cesare Prandelli, che un tipetto alla Rooney ce l'aveva, alla Adrian Mutu, che però si è perso in un labirinto di problemi personali ed errori da dilettante. E così stasera le chance della Fiorentina di reggere l'urto del Bayern Monaco sono affidate alle manone di Fre e dal contropiede di Gilardino. Tutta la squadra, non solo Gilardino, ultimamente attacchiamo l'area con pochi giocatori, quindi dobbiamo avere la capacità di attaccare gli spazi con i tempi giusti. Un punto nelle ultime 5 partite per i Viola, 12 vittorie consecutive per il Bayern. Le due squadre non potrebbero arrivare alla sfida in modo più diverso, ma le notti europee hanno insegnato che tutto può accadere. Massimo Di Scienza, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Daniele Biacchessi e con in regia Fabio Cantadori. Prossimo giornale radio alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.